eliminato 5, 9, 9. E allora sei anche tu che sei disonesto, perché te ne ho chiesto una l'altro giorno e non me l'hai data. No, aspetta che lo smonto, te lo do, quale fu la pilota? Ma fa anche lo spiritoso, allora ce l'avete tutti due contro di me. Non dà di nulla, non dà di nulla a Tino, fregatene, perché come parla non dà di niente, fregatene, lascia perdere. Le valvole ce le tiriamo noi, a costo di spaccarle in terra, ma non gliele diamo. Così, sei diventato così miserabile nei miei confronti. Maledetto, maledetto, Antonè, sei un maledetto, sei diventato miserabile nei miei confronti, io non ti ho mai trattato così, mai, mai. Lo vedi come sei, a vicciaia se ti intendi, un vecchio vigliacco. Vai Tino. Allora Antonio, facciamo una cosa, ne smontiamo una, un pezzo glielo do io, un pezzo glielo dai tu, e lui se deve comporre, me ne va. No, non diamo proprio niente, perché fa? No, non ne diamo neanche una, se le compra una da Fusaro, anzi da Fusaro, alla GBC, adesso che ha fallito, se le compra una se ce ne sono, la verità, perché tanto la GBC ce ne sono al minimo 400 di quelle valvole, se le comprano a 5 euro l'una, non lo so, tanto lui è morto qui in Torino, a un certo punto chiederà al nuovo gestore del negozio e se le fa vendere. Vai, che sei tutta cantata, sei tugnato in chivi tu, resistenti, che apri qualche cosa, perché aprono la serranda, papigliani di qualche cosa, non sei non più pulito, sei tutta la ditta abbigliata, pure Lugani, va a passare sempre chi va davanti, papigliani di qualche cosa, marpione. Che è morto il tuo no? Non sai che sarebbe un dilemma, è stato un dilemma, esatto. Passati tutti i giorni in modo di sapere dove ci buttano la roba e come ha fatto scappa a casa a un certo punto. Se mettono un bel cassone, bello grande, cazzo, con tutte quelle scatole che c'erano, cosa del genere, tanto tranquillo mi faccio il viaggio e mi porto tutta la roba in garage, li porto, te lo dico io. Apparecchi, quello che ci sono, antenne, non sto aspettare a te, no. Antone, aspetta un attimo, ma perché Tonino è morto e no? Quanto li tempo? Eia, è morto Tonino, non lo sapevi dalla GBC, è morto neanche 2 settimane fa. Ah no, non sapevo niente. E adesso quel locale? Adesso il locale, si vedrà. Se tu passi davanti c'è le... dietro, come si chiama, c'è il vetro rotto, perché hanno spaccato il vetro per poter entrare, a vedere cosa c'è dentro e vedranno un po' a chi dare tutta quella roba, ci sono apparecchi, antenne, cavo, eccetera, eccetera. Che peccato, okay. E non sappiamo di chi è, se no magari lo vende a metà prezzo, Io c'ho il dubbio che dia tutto quanto a quello di Pedalieda, quella poverettana, hai capito? No, c'è. Ma sei sicuro di questa cosa, Antonio? Certo che sono sicuro, ma secondo te, cazzo, la roba che... ci sono gli avvoltoi, già lo sai, anche tu. Quindi a un certo punto quello di Pedalieda è l'unico. Hai visto? Hai notato sempre quando ci sono lavatrici nuove nuove che di negozi che falliscono e cose del genere, immediatamente va lui, si prende la roba se la porta lì e se la vende, il discorso è quello. Il discorso è, non lo so, adesso vediamo un po', adesso mi informo se lo prende Fusaro o è un discorso diverso, e se invece parte giù, cioè in pratica all'asta, bisogna fare di andare all'asta e prendere tutto, il discorso è quello. Ma che quel negozio adesso, se c'è il vetro rotto, è roba di ladri, entra in chi viene, bisogna di tutto. Sì, ma che? Allora, se poi c'è qualcuno che non capisce qualche cosa. No, dati non ce ne sono, hanno aperto lì, come si chiama, quando ho visto che lui era 2 giorni dentro a casa morto, l'hanno trovato proprio morto, dopo 2 giorni, hai capito? Non hanno trovato le chiavi del negozio, quindi hanno sfondato il vetro, un pezzo, se tu ci passi davanti c'è un pezzo di legno, infatti già si vede, quindi sta tranquillo, non ci sono ladri. Oh vabbè, che io le poche volte l'ho vista, l'ha sempre busato pure, con lo sguardo un po' perso. Di lì dentro c'è di tutto, di lì sicuramente quella roba lì adesso andrà ad asta giudiziaria, di lì andrà per asta, perché non è che vai di lì e proponi e ti compri tutto, no, non è così. Di lì adesso interviene il tribunale, perché c'hanno anche fatture, coso, documentazioni, e poi sarà, ma chissà, non è roba da va, vedrai, quel locale rimane chiuso anni e anni, non è roba che fanno adesso quella roba lì. Riprendo subito, ti rifumo una sigaretta, così mi rilasso da nervoso, mi ha fatto venire Antonello. Così impari, ecco qua, vabbè. Antonio, poi avevo risolto, ti ricordi che avevamo parlato di una stufa che ti avrei voluto piazzare nel caminetto? Più o meno sì, ero già d'accordo, la verità, poi è subentrato in pratica una spesa in più e quindi momentaneamente ho abbandonato. Adesso vediamo un po', se a febbraio mi danno quello che mi devono dare, ti chiamo immediatamente e mettiamo la stufa dentro il caminetto, come hai detto tu, dentro quel caminetto, hai capito? Tanto piazzare cioè quella specie di coglionata che stanno pubblicizzando adesso, in pratica fa caldo e freddo eccetera eccetera, più e cose del genere, cazzo, consuma 1000 e 2000 watt, quindi non conviene, preferisco a un certo punto piazzare quello che mi hai detto tu e così sono a posto, me la salio piano piano a spalle e non c'è nessun problema. No, perché io l'ho piazzato in camera di mio figlio, è una specie di cenebasco, si chiama, è a gasolio, tu fai il pieno, saranno 5 litri di gasolio, ma ti durano, praticamente c'è questo riscaldatore, si mette in moto lui, no? Si mette in moto e ti dà l'aria calda, ma è bello, cioè, ne fa un bel di aria calda. Va bene così, che mi dia l'aria calda, hai capito? In salone, facciamo mettere in salone, mi interessa che parto da lì, hai capito? Perché il freddo parte, cioè entra dalla porta d'ingresso e poi va direttamente nel caminetto, quindi in pratica vuole interrompere quel flusso, hai capito? A un certo punto, se io mando aria calda, mando aria calda sia in salone e sia nelle altre camere, tutto lì, hai capito? Il discorso è quello lì. Anche perché stare con due stufe accese, pagare 400 euro, non è che mi vada molto bene, tutto lì, il discorso è quello, hai capito? Te l'ho anche detto, quindi, cioè, poi portarmi su il pellet non è che mi vada bene, cioè 15 kg ogni volta a spalle, cazzo, a salirmelo in quella specie di curva non mi sta bene nemmeno, quindi a un certo punto mi va bene un'altra alternativa per come scaldarmi la casa, tutto lì, perché c'è freddo, mi inverno, c'è veramente freddo, specialmente quando fa vento e cose del genere, perché mi entra il vento dentro casa, da sotto la porta, dopodiché da lì va direttamente al caminetto, in automatico, e tu già lo sai, già l'hai visto. Sì, no, vabbè, però io ti ho anche detto che uno non bastava, perché sono due camere grandi, e uno lo volevo mettere in camera di Simona, ti ricordi? Che bisognava guardare, però voglio dire, uno te lo mette in cucina e bene o male stai bene lì. Sì, quello c'è, sono d'accordo anche io con te, adesso vediamo un pochettino, adesso faccio passare tutto gennaio e poi febbraio, vediamo un pochettino ciò che incasso e poi ti chiamo e ti faccio sapere, hai capito immediatamente, se la farsi si fa immediatamente, si fa. Così almeno sono tranquillo, sono a posto e non devo girare le balle il prossimo inverno. Tanto ormai gli inverni sono diventati strani. O c'è vento, o c'è neve, non è più l'inverno di prima, hai capito? Non è un inverno temperato, come si fa, come era prima, hai capito? Ormai è così, non è un inverno temperato, è un inverno totalmente diverso. Vi hai notato, vento, cazzo, vento, e poi cicloni qua, cicloni là, una presa all'altro, cazzo. Mai ci sono stati i cicloni, cazzo, in Sardegna, cazzo. Adesso ci sono, cazzo. Boh. Non si sa più cosa cazzo fare, bisogna stare molto attenti anche quando si sta le antenne, adesso non è più come prima potevi lasciare per dire l'antenna senza i tiranti, cosa del genere, adesso ci vogliono anche i tiranti, non solo l'altro, cosa è quello lì? Lo so, e va bene, andare, io sono preparato la roba per i cani, mi preparo la roba per me e poi vado a nanna, perché sennò la mattina è un casotto. Vabbè, salvi, è così, bisogna combattere sempre. Ci sono, ho ripreso. Ascolta, aspetta un secondo, adesso... Parlate tutti e due un attimino in FM di qua, che io installo quell'apparecchio che ho comprato, il Radar 950, e mi dici come esco, 2 minuti, con quel portatile. Vai, provala, io. Prova questa bucaria che ho comprato. Perché? Va bene. Dai, comunque ci abbiamo fatto due risate, dai. Comunque è veramente un peccato quella roba della GBC, è veramente un peccato, di lì vedrai che quella roba la venderanno, chi la biglia vero la venderanno una fesseria. Una fesseria non penso, perché una fesseria, non lo so, una fesseria, tutta la roba che c'è. Una fesseria per quanto, dai, in confronto al valore che ha, perché roba già adattata, roba, perché poi di lì adesso manderanno anche qualche peritto sicuramente. Ah sì, beh certo, quello sì, magari dicono tutta roba attrice, nel senso che roba che non si usa più, quello e quell'altro, allora provarsi, però a chi interessa. Sì, magari anche o ritirerà stesso anche GBC, eh. Magari secondo gli articoli che aveva ritirerà stesso anche GBC. Ma chi lo sa? Beh Antonio, che tu portate la 020 in Dio, cosa devi fare? Franco ci ha mollato. E beh, mi senti bene? Siamo qua, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come mi ascolti? Bene, sì. Sì. Ecco, questo fa dalla 27 in FM sino a 990 MHz, figurati tu. A parte, vabbè, ci sono delle frequenze di ricezione, ma comunque sia, la frequenza VEU ce l'ha, e anche la addirittura quella per le frequenze aeree, tutto prende, hai capito? Già va bene, già, ma che funziona ancora, sì? Sì, che funziona sempre, lo sai, e quindi non c'è problema. Fa anche la ponte radio addirittura, quindi non c'è nessun problema, basta impostarlo e fa la ponte radio questo apparecchio qua. E poi vabbè, fa tante altre funzioni, vabbè, quando ci vediamo te lo faccio vedere. come si chiama? Il Radatel 950 R+, cioè R+, vabbè, è così, R+, più che altro. No, 950 Pro, per esattezza, no? 9+, Radatel 950 Pro, basta che guardi solo su internet, ti guardi le... tutto quello che c'è scritto, la programmazione eccetera eccetera, è una cazzata a farlo, col telefonino lo fai. Ma sì, con l'antenna esterna. Sì, sì, solo con l'antenna esterna adesso. Se metto l'antenna quella per la 27 mi dovresti sentire lo stesso, perché è lunga un metro e venti lunga. Vai, sì, vai. Vabbè, io qua l'ho sotto 9, Santiago 9. Fa un passaggio un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qua sì, yes, è 3 a picchi positivi. Va bene, cazzo. A voglia. C'è anche l'avanzo. Io figurati con l'antenna che monta questo qui per la 27, da pedalietta a casa, fuori dal finestrino, 9 più 20 a casa mia. Vabbè, bello, il radio, è un irradio quello. E chiamalo come vuoi, il radio, quello che è. Poi vabbè, fa la V, la U, e un sacco di frequenze, addirittura ricevo tutto, ricevo, è bello per quello. Basta controllare il Radatel 950 Pro su internet, guardati i dati e sai e ti esce 10 watt. Yes, yes. Vai Tino, io faccio il tuo passaggio, poi chiudo perché domani si lavora. E anch'io mi sto aspettando a questo perché devo dare a mangiare il cane anche. E stanno dormendo fuori entrambi, quindi devo dargli a mangiare un pasto caldo, almeno per la notte, perché Argo si sta riprendendo, però ha ancora qualche cosina di, non dico puzza, ma quello lavatore, perché il siero diciamo si è seccato nel pelo e insomma è brutto anche vederlo. Sì. Vabbè, piano piano già si riprende del tutto, piano piano già si riprende del tutto. Signori, io chiudo e ci sentiamo alle prossime. Ciao Tino, buonanotte, buona giornata per domani. Ciao Antonello, pigliatila all'improcio Antone. Ciao, buonanotte, io chiudo. Io, va bene, ti ringrazio caro. Alle prossime, buona la chiusura, buon tutto, ci vediamo alle prossime, eccetera, eccetera. Avanti Tino. Anche io vi saluto entrambi perché, lo ripeto, devo prepararmi il rancio per domani e poi niente, mi devo coricare che domani mattina il gallo, anche se ho tirato mezzo collo, canta lo stesso e devo andare e quindi devo mollare. Ci sentiamo domani, ciao, buonanotte, tante cose belle, salutami Simona, Antone, ciao, buonanotte. D'accordo, ok, ti saluto Simona, a domani, fatemi bene tutti e due, ciao ciao ciao, buonanotte. Ciao ciao.